Draghi è un problema comunque al Quirinale come a Palazzo Chigi, nel senso che è il segno di un'unanimità del potere, che è poi quella che in realtà parla bene e bazzica male, nel senso che questa unanimità è il segno stesso di un'unanimità di quello che noi chiamiamo il partito trasversale degli affari, dove c'è tutto e il contrario di tutto, è quell'unanimità che lancia la riconversione green del mondo e poi ripropone il nucleare, le grandi male opere, che fa una gran confusione per quanto riguarda la questione del Covid e non ha potenziato assolutamente né gli ospedali né i servizi pubblici. Tutto sta franando non per un disguido del sistema, ma per il sistema stesso, perché nel momento stesso in cui i servizi pubblici vengono, la sanità pubblica, la scuola eccetera eccetera, vengono depotenziati, si potenzia invece il privato, nascono come funghi le cliniche private in questa stessa nostra valle dove vorrebbero far passare l'alta velocità, del resto la famosa alta velocità già ci sta passando, perché la Freccia Rossa da un po' di tempo passa in questa nostra valle. Questa nostra valle hanno chiuso gli ospedali, esiste soltanto più l'ospedale di Susa, il quale però è stato, diciamo, dimezzato per quanto riguarda le prestazioni, aveva ancora il reparto analisi che in questi giorni è stato praticamente chiuso e delocalizzato altrove, per cui questo è il segno del malgoverno che si tinge di buon governo, ma buon governo non è, per cui non ci sembra sicuramente il personaggio che possa rappresentare quello che è il bene pubblico, quello che dovrebbe essere l'interesse di tutti, quello che dovrebbe rappresentare le persone anche di questo nostro paese, e che invece le rappresenterebbe molto male. I bisogni sono tanti, il Covid che sta dilagando non ha una risposta davvero efficace, sta facendo vittime infinite proprio nei luoghi più bui, i luoghi dimenticati da tutti, che sono le carceri, che sono i CPR, le carceri che stanno scoppiando per il numero di presenze, anziché essere svuotate sono sempre più riempite per delle cose che andrebbero comunque non represse, ma andrebbero curate. Allora, questo mondo in cui viviamo non è il mondo che vogliamo, e a rappresentare il mondo che noi vorremmo non può esserci chi invece questo mondo che non vogliamo lo sta portando avanti a tutti gli effetti. Ecco, invece, che caratteristiche dovrebbe avere a tuo avviso un Presidente della Repubblica? Il Presidente della Repubblica italiana dovrebbe essere intanto con una chiara impronta antifascista, quella che stava alla base della Costituzione della Repubblica italiana. Non potrebbe rappresentare quest'unanimità che è l'unanimità dei più forti contro i più deboli, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, alla scuola, il diritto ad un ambiente veramente pulito, ad un mondo che non sia il mondo della guerra, lo è sempre di più, un mondo dove davvero si possa vivere in pace, dove non esistano frontiere per chi viene a cercare il diritto minimo di sopravvivenza in questo nostro mondo, dove davvero ognuno sia dato secondo le sue necessità e ognuno possa dare secondo le sue possibilità. È esattamente il mondo opposto a quello in cui ci è dato vivere. Noi vorremmo un mondo dove si possa vivere in pace, una pace non del più forte contro il più debole, una pace davvero collettiva, dove il lavoro sia un lavoro che non devasta e non uccide chi lo fa e chi lo subisce, dove davvero ci sia il diritto all'istruzione, dove ci sia anche il diritto alla bellezza, insomma, questa, dove esista armonia. Il Presidente della Repubblica dovrebbe essere il garante di tutto questo, cioè dovrebbe essere una persona che in sé rappresenta questi valori, dove noi non pensiamo che possa esserci un grande abbraccio di tutto e del contrario di tutto. E invece la figura di Draghi è esattamente questo, è il segno dei poteri forti, ecco, dei poteri forti che magari a volte si presentano anche sorridenti, i poteri forti che sono l'Europa delle frontiere e dei memorandum, che sono il mondo della guerra.